Bentornati su Now Boarding. Dove possiamo essere, Francesco, questa sera? Ma Messico sicuro, direi. Però la città? La città del Messico. Eccola lì. sì, prima volta più o meno in Centro America, se non sbaglio. E quindi andiamo a farcelo raccontare. Andiamo da chi, Davide? Presentiamo così la nostra ospite. Ciao Caterina. Ciao. Ciao, benvenuta. Benvenuta. Grazie. Vogliamo un attimo comunque dire che il tema di questa puntata sarà molto particolare, perché oltre a raccogliere l'esperienza personale di Caterina, racconteremo anche cosa ha fatto Caterina in Messico. Sì, e abbiamo deciso di mettere un po' la testa a posto e parliamo di farci una famiglia all'estero oggi. Ecco. Dopo tante storiacce abbiamo messo anche noi la testa a posto, insomma. Ed è giusto così. Infatti. Terzo grado? Vogliamo cosa dici? Passare al terzo grado per conoscere un po' questa nuova esperienza. Sì, Caterina, ti facciamo un po' di domande. Va benissimo. Allora, non siamo dei cavalieri, quindi da subito l'età. Va bene, 35 anni. Dove ti trovi adesso? A Città del Messico. Sei a casa, sei in giro? Sono a casa dei miei suoceri. Ho capito. E dal momento che parliamo di famiglia, il bambino dorme o ci ascolta? Il bambino in questo momento sta dormendo, spero, con il suo papà. Se mai ci si sveglia, ce lo presenti. Giusto. Va bene. Cara Caterina, cosa fai in Messico? Allora, in questo momento sto facendo la mamma, perché il mio tempo è praticamente tutto occupato dal mio piccino. Però prima, e quando il mio bambino sarà un po' più grande, ritornerò a fare il mio lavoro, che sono un insegnante di italiano. Da quanto tempo sei in Messico? Da 3 anni. Però mi sembra di sentire un po' l'accento, cioè un po' una punta di accento spagnolo, mi sbaglio? Può essere, però comunque essendo un po' vagabonda ho fatto un miscuglio di vari accenti. Ecco. Partendo, da quello veneto a quello toscano, perché ho vissuto 10 anni a Firenze e adesso lo sto mescolando con lo spagnolo. Ah, ok, ecco perché. Ecco. Come mai ti sei trasferita lì? Perché ho sposato un messicano. Vedi che belle le storie d'amore. Dove ti portano? Molto lontano. Hai sposato un messicano e quindi insomma l'hai seguito a casa? Diciamo che l'ho sposato in Italia. Siamo stati in Italia diversi anni. Poi lui ha avuto un'offerta di lavoro qui in Messico. Lui fa il restauratore e adesso sta lavorando per il Museo Sumaya qui a Città del Messico. Ah. E quindi abbiamo scelto di fare questa nuova esperienza. Ho capito. Avevi già vissuto all'estero in passato o la prima volta? All'estero mai. Ok, quindi è la prima volta. Un trasferimento Italia-Messico. Sì. Da quanti anni che non torni in Italia? No, da pochissimo, sono tornata 3 mesi fa. Hai fatto le feste. Ho capito, ma il bimbo è nato in Messico o in Italia? Il bimbo è nato in Italia. Ah, ok, un po' come... Quali sono i pesci che tornano, tipo... Dove sono nati per far nascere i figli? I salmoni. Eccoli là. Hai fatto un po' una cosa da salmone. Sì, però è stata la scelta giustissima perché avevo bisogno di mia madre. Ah, ok. Ma quindi hai fatto il viaggio col pancione? Sì, ho fatto il viaggio col pancione all'ottavo mese. Ah, ok. E i tuoi programmi futuri sono quindi legati al Messico? Per ancora un po' di tempo, però il programma è di rientrare in Italia o in Europa. Ah, ho capito. Allora non sveliamo nulla. Non sveliamo nulla. Infatti, semmai Davide, ci facciamo un'altra puntata nel caso... Beh, giusto, prendesse considerazione un'altra destinazione. Benissimo, lanciamo la seconda traccia. Correggimi pure Caterina per la pronuncia. Pate de fua, seloso ed esubicado. Perfetto. Alla grande. Sabes que como te quiero nunca nadie va a quererte. Que mi corazón sincero se marchita de no verte. Por quererte que no puedo mantenerme indiferente. Se acerca un insolente pretendiendo tu querer. Yo fui zorro y mujeriego cuando no te conocía. Por entonces no sabía lo que me esperaba luego. Y hoy lo digo con orgullo. Que lo sepan los presentes. Soy enteramente tuyo. Y eres mía solamente. celoso soy y también desubicado cuando pasan a tu lado y te miran. Como solo puedo yo, una rabia incontenible se me trepa por el pecho cuando entiendo que la has hecho, si te rima algún varón. Y perdón si soy cabrón o te meto en algún lío, yo tan solo así defiendo lo que quiero y siento mío. Yo tan solo así defiendo lo que quiero y siento mío. Vos al ser un bomboncito de inocente chocolate, no entendés el disparate por tener poca experiencia. Yo conozco aquella ciencia porque la apliqué algún día, sin saber que encontraría una nena como vos. ¿Qué me importa lo que diga de mí tu psicoanalista y esa loca feminista que se dicen tus amigas? No me gusta lo moderno, me van esas posturas. Yo sé que tu amor es tierno y te quiero con locura. Celoso soy y también desubicado cuando pasan a tu lado y te miran. ¿Cómo solo puedo yo? Una rabia incontenible se me trepa por el pecho cuando entiendo que l'has hecho. Interessante come musica. Sì, sì. Caterina, come mai hai suggerito questa bella canzone? Perché è un gruppo che mi piace molto, i Pâté de Foix, e ho visto un loro concerto e sono molto simpatici, molto allegri. La musica mi sembra non molto commerciale, però con un ritmo allegro. Ma Pâté de Foix cosa significa? Ma io penso sia una parola francese che... cioè, nel più del petto d'oca. Esatto. Ah, ok, quindi era quello. Però no, sì, non, sì. Non volevo azzardarlo io, quindi... No, penso che l'abbiano... Non so perché, non so spiegarvi il perché, però credo proprio di sì. Non è una parola spagnola. Ah, ok. Benissimo. Introduciamo il prossimo tema, la descrizione della città. Quindi volevamo chiederti in quale zona vivi della città del Messico. Ok, io vivo nel centro della città del Messico. Ora, come vi potete immaginare, è una città gigante e vivo nella colonia Roma. Una colonia molto centrale e anche molto, molto tipica, con molti edifici coloniali, è molto carina. E quindi come sono organizzati questi edifici? Tipo la città, così in quella zona, come vi portate un po' la zona delle belle arti, no? Quella lì. Sì, vabbè, la città del Messico, io la definisco affettuosamente un mostro. Siamo 20 milioni di abitanti, quindi... È una città gigante, è una città che è molto varia, che ha molte differenze economiche, sociali, e puoi andare da quartieri bellissimi come quartieri di Polanco, la Condessa, che sono molto occidentali, molto curati, sì, a quartieri invece poverissimi dove se puoi eviti di andarci. Ma quindi cose come tipo favela, cioè come ci immaginiamo magari altre città, altre grandi città del Sud America, o non a quei livelli? Non credo a quei livelli, però comunque ci sono delle zone molto, molto povere, dove è pericoloso andare, dove è sconsigliato andare. E mentre ci sono delle zone ricchissime, c'è una differenza tra il ricco e il povero qui che è impressionante. Noi italiani non possiamo accettarla e neanche immaginarla. Quindi magari finisce che in certe zone neanche uno, cioè no, uno non ci va mai, cioè proprio le evita, immagino, no? Sì, ci sono delle zone dove non eviti di andare. Ecco, poi... Prego, scusami. Sì, dove ad esempio un giorno ho trovato un taxista che lui mi diceva, pur essendo insomma il suo lavoro quello, che lui in certe zone della città non entra per paura. Abbiamo capito. Infatti purtroppo il Messico è noto all'estero proprio per la cronaca nera, per tutte le uccisioni che ci sono a causa anche del narcotraffico. e tutto, anche se in realtà non è così insicura la città, basta sapere dove muoversi. Mm-hmm. Un turista che viene a Città del Messico in certi posti non ci andrà mai, nemmeno per sbaglio. Detto questo, però, cerchiamo un attimo di orientarci sui luoghi magari migliori, giusto Francesco? Sì, sì, sì. Quindi ti vogliamo chiederti quali potrebbero essere i luoghi tuoi preferiti o quelli che vuoi consigliare ai nostri ascoltatori. Ok, vabbè, il centro, che è bellissimo, ci sono delle costruzioni ispaniche ma anche preispaniche, quindi con i tempi proprio, con quello che rimane dei tempi Maya. E poi il mio luogo preferito, dove mi piace tantissimo andare, è una zona al sud della città che si chiama San Angel, ed è una zona residenziale coloniale con molti giardini, e in particolare il sabato fanno un mercato che si chiama Bazar Sabado. Mm-hmm. Dove è bellissimo andare, ci sono due bellissimi giardini con gli artisti che espongono le proprie opere, si possono incontrare, trovare molto artigianato locale, artistico, anche indigeno, ed è bello per i colori messicani che sono molto vivaci, molto questo vivi. Fucsia, sì, sono fantastici, per i colori, per gli odori, perché comunque ci sono molti posti dove fanno da mangiare, e la cucina messicana è tra il patrimonio mondiale immateriale dell'UNESCO. Mm-hmm. È fantastica, e la musica, i mariachi, quindi si respira proprio un'aria messicana, quello che un turista o uno straniero si può immaginare proprio com'è aria messicana. Diciamo che il sabato magari uno può prendersi un appunto, staccarsi magari dal caos della città, da queste cose, e concedersi, no? Un momento di messicanità. Esatto, è un po' di shopping. E come si chiamava questa zona? San Angel. C'è scritto? Così ce lo cerchiamo con calma. San Angel. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Ma sì, il bazar si chiama Bazar Sabado. Bazar Sabado. Ma era perché avevo trovato così due informazioni su una zona abbastanza nota per i mercati delle pulci, la Lagunilla, forse. Ok, però è tutta un'altra cosa. Sì, è tutta un'altra cosa, anche perché io non ci sono mai stata, ma da quanto mi hanno detto non è proprio un posto molto bello dove andare. Ecco, vedi Davide, che ho già sbagliato tutto in partenza. E in questi ultimi 3 anni sei riuscita a visitare qualche altra zona oltre il Messico? Qualche altra città, qualche sì, altra oltre città, la città sì. Del Messico, sì, sì, sì. Ho visitato San Miguel de Allende, che è una città qui vicina, un paio di ore dalla Città del Messico, ed è fantastica. Fa sempre parte del patrimonio mondiale UNESCO, ma è proprio bellissima. Ho visitato il sud del Messico, quindi le spiagge che sono vabbè, lo Yucatan, che vale la pena, è un posto veramente meraviglioso. E città come Puebla, Oaxaca, Baja California. Il Messico è veramente grande ed è veramente vario. Dove vai trovi sempre qualcosa di bello e di differente. Dalle parti di Tijuana ci sei stata? Sono stata a Ensenada. Sono arrivata all'aeroporto di Tijuana e poi sono scesa e sono stata a Ensenada. Che è da quelle parti? No. Sì, sarà un'oretta e mezza o due da Tijuana. Ho capito, Tijuana è molto bello. Sì, Tijuana è l'ultima città messicana, no? Prima degli Stati Uniti. È al confine, esatto. Esatto, esatto. Proprio dimmi. No, dimmi tu. No, proprio per questo a volte non è proprio il posto più sicuro dove andare. Infatti, lo dice anche Manu Chao, non in questa canzone che mettiamo, ma in un'altra. Questa invece sono i Tijuana, no? Assieme a Manu Chao, con Fiesta de Barrio. Por la calle. suenan las maracas y suena el bongo, suena la guitarra y suena el saxofón, suenan por aquí, suenan por allá. Y todo mi cuerpo que no deja de bailar, se acalambran sus rodillas, se me tuercen las patrullas, se me mueven las orejas, se acelera el corazón y de tanto, tanto brinco. ¿Qué pasa por la calle? Puntata in grossa parte ska questa, David? Decisamente. Allora, torniamo un po' a parlare di Città del Messico, Caterina. C'era un po' una cosa che ti volevamo chiedere. È un po' famosa, tristemente, anche per un alto livello di inquinamento, Città del Messico, no? Sì, sì. Ecco. Essendo 20 milioni di abitanti, ognuno con un minimo una macchina, e considerando che molte macchine sono vecchie, quindi non sono efficienti dal punto di vista ambientale, sì, purtroppo c'è un fortissimo inquinamento, specialmente in inverno, nel periodo invernale che non c'è la pioggia, e quindi purtroppo l'aria rimane inquinata. Ma nella vita di tutti i giorni, cioè lasciando stare questioni propriamente scientifiche, cioè proprio la gente di tutti i giorni, anche tu come ti sei trovata? Per me è stato difficilissimo quando sono arrivata. Io sono arrivata a febbraio, quindi nel pieno inverno e quindi pieno inquinamento, anche perché qui è inverno ma fa caldo. Ammetti un caldo folle con un'aria molto inquinata ed è veramente terribile. Poi ci si abitua, non abbiamo altra opzione. Sì, in effetti, magari uno spot delle attenzioni, cose, respiri e via. Sì, si cerca magari di evitare, se si può, gli orari di punta, dove il traffico, praticamente ci ritroviamo a volte con le macchine totalmente ferme, che sono in troppi. Si cerca di evitare quegli orari e io in casa ad esempio uso un filtro dell'aria per cercare almeno di respirare aria pulita quando sono a casa mia. Addirittura, ma non ti spaventa un po' questa situazione ambientale? Sì, mi spaventa parecchio. Questa è una cosa, è una delle cose che non mi piace del vivere qui. Anche per il bambino, immagino, no? Sì, per il bambino infatti questo è un grosso problema. Per questo stiamo pensando di muoverci. Ok. O di trasferirci a qualche altra parte. Era una cosa che ti aspettavi? O ci avevi un po' messo in conto questa situazione? Sì. È una cosa che mi aspettavo, però tra pensarla e viverla è una cosa differente. Eh beh, sì. Poi quotidianamente non ci penso, perché comunque dopo, a parte lo shock iniziale, uno si abitua. Però poi quando ritorno ad esempio in Italia, a Portogruaro, è molto tranquillo, e rientro qui soffro, gli occhi lacrimano e si sente tantissimo lo smog. Pro e contro. E a parte questa situazione ambientale, com'è che si vive a Città del Messico? Si vive bene e male. Bene, bene, perché comunque è una città che offre tantissimo a livello culturale, con diversi programmi, ci sono tantissime cose da fare, non ci si annoia. Male dal punto di vista appunto dell'inquinamento e a volte anche della poca sicurezza. Quindi sì, ci dicevi un attimo prima nella una cosa che un po' mi ha... Qui ci siamo guardati io e Davide, che a volte quando prendi l'autobus ti fanno firmare, tipo a tuo rischio e pericolo. Ti filmano con una telecamera. Ah, avevo capito firmare, scusa. No, filmare, quando esci dalla città e vai in altri posti, in questi autobus ti filmano, perché se succede qualcosa almeno hanno le registrazioni di chi c'era, per sicurezza. Pazzesco. Un po' come a Gardaland, quando ti fanno la foto quando scendi dalle giostre. Ma poi anche ritirare il video poi con chiavetta. Ecco, qui non lo so, mi devo informare. Magari potrebbe essere interessante, sai, uno che collezioni di video si fa. Di viaggi. E ne sta cambiando un po' sia dal punto di vista della sicurezza che magari anche del rispetto per l'ambiente. Cioè, almeno in Europa quasi tutte le città stanno cercando di fare grossi sforzi in questo senso per migliorare la qualità della vita. Lì? Certo. Dal punto di vista ambientale si stanno cercando di fare dei cambiamenti. Ad esempio adesso stanno facendo delle piste ciclabili, un sistema di biciclette pubbliche, quelle stile ad esempio come in Francia, come il velo francese. Uh-huh. E da questo punto di vista sì, stanno cercando di cambiare i mezzi di trasporto, c'è il tram, c'è la metropolitana. Dal punto di vista della sicurezza si fanno degli sforzi. Diciamo che Città del Messico è ancora uno dei posti più sicuri a confronto ad altre parti, però comunque non è sufficiente. ma è difficile da gestire quando tu hai una città così grande, una popolazione così grande, una grande differenza tra ricco e povero è molto difficile. Sì, proprio. Poi, anche... essendo zona di confine tra il Sud America e gli Stati Uniti, ovviamente il problema del narcotraffico è un problema difficile. Sì, credo sia un grosso filtro il Messico, no? Esattamente, sì. Decisamente, quindi passiamo quindi alla quarta traccia. Già la quarta. Attenzione alla mia pronuncia perché non sono molto bravo, ma cercherò di farlo. Panteon Rococo, La Garenzia. Tiene lugar. Fanno venire sempre un sacco di voglia di ballare e bere birra queste canzoni. Queste erano tanto ska. Infatti, Panteon Rococò è proprio di Città del Messico. Questi, c'è della birra lì? Sì, c'è la birra. E qui la festa vuol dire bere, bere molto. Questa è una costante. L'abbiamo sentito da San Pietroburgo fino a Auckland, praticamente. Cioè, ovunque nel mondo. Vabbè, così è. Importante che sia buona. Sì, infatti. Ce ne consigli qualcuna di birra messicana? No, dipende dai gusti. A me piace la birra scura e allora vi consiglio la Negra Modelo. La Negra Modelo? Mm-hmm. Mm-hmm. Che è sempre della Corona, però sono altri... Sono altre birre che si trovano solo qui e credo forse nel sud degli Stati Uniti. Ma perché anche la Corona è messicana, quindi? Sì, è messicana. Tra l'altro pubblicità, con questa nonchalance, vabbè. E come sono organizzati lì i locali? Almeno io mi vedo queste grandi terrazzone con questi uomini con il sombrero. Baffi. E i baffi. I locali sono, vabbè, ci sono c'è di tutto e di più, ci sono diversi tipi di locali, però sono i posti molto allegri dove si beve molto, non si esce mai per bere una birra, minimo sono 10. Ecco. Olè. Aggiungiamoci poi la tequila, mezcale e altre cose, quindi veramente una fiesta messicana. E la temperatura che sale. Infatti. Esatto. Allora, cambiamo registro. Al di là, tra una birra e l'altra, come ci si fa una famiglia in Messico? Bella domanda. No, in realtà ce ne siamo chiesti, insomma, penso che quando uno si può trasferire all'estero e più o meno vada solo a se stesso, però a un certo momento, poi quando vuole comunque insomma fare una famiglia, deve fare degli altri ragionamenti, magari deve pensare, beh, ritorno a casa come appunto i salmoni o rimango all'estero, insomma, per te com'è stato? Per me sono stati diversi anni di riflessione appunto su questa domanda, su cosa faccio, aspetto, rientro in Italia per offrire una qualità di vita migliore a mio figlio o ci provo. Poi scatta l'orologio biologico, devi scegliere, non puoi aspettare e rimandare e decidi di provarci. Ed è la scelta, beh, è stata la scelta giusta. Io poi sono ritornata a partorire in Italia perché avevo bisogno del supporto di mia madre e anche perché comunque molto spesso si tende a parlare male del settore sanità in Italia, però una volta che si prova il settore sanità all'estero si capisce di quanto siamo fortunati. Qui c'è il settore pubblico, offre un servizio abbastanza scadente, mentre se vuoi un servizio di un'altra qualità devi avere una polizza privata, un'assicurazione privata, che io avevo, che però alla fine ho scoperto non mi copriva il parto naturale, solo cesareo. Ah, ok, quindi a quel punto hai detto, beh, me ne torno, insomma, ti è convenuto prendere un volo e tornartene da queste sì, parti. Esattamente, sì. Ma comunque devo dire che parlando adesso posso dire che è stata la scelta giusta, perché è stato essenziale veramente l'aiuto di mia madre, della mia famiglia, del sapere dove vai, parlare la stessa lingua, tutto aiuta in un momento così difficile come il momento del parto. E come funziona con le nazionalità? Che se ne è anche un po' parlato in Italia recentemente. In che senso? Cioè, tipo, non so, tuo figlio ha una doppia nazionalità, italiana e messicana, come funziona in questi casi? Sì, prendi direttamente la nazionalità italiana, essendo figlio di italiana, uh-huh. E poi qui ha preso la nazionalità messicana. Tra l'altro mio marito è mezzo messicano e americano e ora stiamo cercando di fare le carte per prendere anche la cittadinanza americana. Ok, cioè per dare la cittadinanza americana al figlio? Sì. Ah, ok. Perché sì, appunto sì, si sta dibattendo anche in Italia sulla questione nazionalità per gli stranieri e cose del genere, sì, non deve essere anche troppo semplice. Entrando in questo tema, una cosa che ricordiamo anche in Italia, quando una madre rimane incinta mentre lavora, la tutela meno dello Stato, diciamo. Spesso sì, no, sono delle difficoltà per le mamme da queste parti. E lì in Messico come venite tutelate? Nel senso, avete la possibilità di continuare a lavorare fino a un qui, certo mese, poi siete... Qui è peggio, la situazione è veramente peggiore, perché dopo 45 giorni dal parto una madre dovrebbe rientrare al lavoro con un'ora solo per allattare, che viene concessa. E quindi è veramente difficile. Ho molte amiche qui che hanno all'incirca 30 anni e che dicono sì, voglio un figlio, però voglio anche continuare a lavorare. E non è facile poi lasciare il proprio figlio a qualcun altro quando è così piccolo. Quindi insomma questo problema che c'è da ste parti l'hai ritrovato anche là? Sì, anche più accentuato, perché comunque veramente è un lasso di tempo troppo, troppo breve per poter rientrare al lavoro. Chiaro. E indipendentemente dal posto che tu ti sei trovato, che tu fossi in Messico o in un altro stato, cioè com'è il rapporto del trasmettere la tua cultura e quella italiana a tuo figlio? Cioè, è una cosa importante, magari invece uno non ci pensa, non... Beh, è una cosa essenziale. Poi credo sia anche molto naturale, perché comunque crescendo, passando il tempo con tuo figlio, gli trasmetti quello che sei, quello che è la tua cultura, quindi gli trasmetti la cultura italiana. Certo, però, essendo figlio di italiano e di messicano, ritengo che sia giusto che riusciamo a fare una fusione delle due culture che tra l'altro sono anche molto simili, perché comunque anche qui c'è l'idea molto forte della famiglia, la figura importante della madre. Qui addirittura il giorno della mamma i lavoratori possono prendersi metà giornata e andare a mangiare a casa con la mamma il 10 di maggio. Quindi forse è anche più forte di quella che c'è in Italia. Mm-hmm. E la cultura del cibo, la cultura comunque della bella vita. Quindi non è una cosa molto complicata. Certo. Beh, effettivamente l'ultima volta avevamo un italiano che aveva aspettato una giapponese, probabilmente lì i contrasti no culturali. Cavolo. Un attimino, sì, è un po' più difficile forse. È un po' forse. Più difficile. Anche perché, scusami. No, vai. Anche perché italiani e messicani hanno questa caratteristica che esistono le regole, però esistono anche tanti altri modi di fare le cose. Quindi... esatto. E anche siamo i baffi abbiamo simili. In comune, eh? Io ritorno sui baffi, ci abbiamo in comune, quindi, anche quelli. E, quindi insomma, attualmente, se dovessi dire, ti immagini maggiori possibilità per tuo figlio in futuro in Italia o in Messico? Io spererei in Italia, però sarà sua la scelta. Certo, quindi insomma dici, beh, cerco di trasmettergli questa cultura intanto e poi si vedrà, no? Esatto, sì, giustamente. Certo. Anche perché fra 20 anni non si può sapere. Ah beh, chiaro. E quindi insomma, se dovessi dare dei consigli a chi si ritrova a fare questa scelta, cioè appunto dove mi faccio una famiglia? Di buttarsi e di provare, perché poi alla fine l'importante è quello, è sentirsi pronti e dare al proprio figlio amore, tempo e quello che si ha. Perché sennò si rischia di attendere, di aspettare, e passa troppo il tempo. Ho capito. Come si chiama? Non ti abbiamo chiesto come si chiama il bambino. Si chiama Liam Andrea. Liam Andrea. E sta ancora dormendo? Sta ancora dormendo. Allora sì. ce lo saluti dopo, con calma, quando si sveglia. La mano magica del papà funziona. Beh, salutiamo, tutto liscio. Sì, salutiamo anche il papà, quindi anche lui un grosso merito in questa puntata di Nowboarding. No, David? Giusto. Avete pensato di una prossima destinazione, quindi avete intenzione di tornare da queste parti o avete valutato di... Stiamo cercando lavoro prima di muoverci. Sarebbe bello poter ritornare in Italia o a Portogruaro o a Firenze, altrimenti come sogno, però questo veramente come puro sogno, sarebbe bellissimo potersi trasferire a San Francisco. Non male. Non male come idea. Noi abbiamo una puntatina registrata da San Francisco, però si parlava di Los Angeles. Cioè ti può essere utile, la trovi nel nostro blog, giusto David? Giusto. Sì, okay. Guarda, nella sezione podcast nowboardingradio.wordpress.com la trovi. Ecco. Ok, così prenderò spunto per qualche informazione importante prima di un eventuale trasferimento. E vedi che Nowboarding alla fine serve, Davvero. Vogliamo quindi prendere in considerazione e lanciare gli altri contatti, Francesco? Vada. Quindi ricordiamo che siamo su Radio Sandonà in FM sui 102.200, il nostro sito, anzi il sito della radio è www.radiosandona.it senza accento, il blog l'ha ricordato Francesco, su Facebook trovate la nostra pagina scrivendo Nowboarding Radio e ricordiamo per ultimo la nostra mail nowboardingradio@gmail.com. E così abbiamo detti tutti. Il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto. Ed ecco qui, finito allora, in Messico. Beh, in Messico no, non potevamo non chiudere con Santana, no? Giusto. Santana, grosse somiglianze con Gheddafi, dicono, proprio fisicamente. Questo per dire la stronzata della puntata. Caterina, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Piacere nostro. Stacci bene, fatti sapere se hai delle novità, Va bene, vi terrò aggiornati. Sicuro. David, ci salutiamo. Ci salutiamo. Salute a tutti. Ciao Caterina, grazie di Ciao. Cuore. Alla prossima. Al prossimo mercoledì. Ciao, vi lasciamo con Europa, Santana. Un ascolto.